Ehi, guardate il video fino alla fine, mi raccomando, come sempre del resto, perché questa volta ci sarà proprio una grandissima sorpresa. Avete mai visto un bambino che abbia paura della luce? Praticamente impossibile. Eppure noi adulti abbiamo a volte più paura della luce che dell'ombra. È quello che ho imparato da una poesia di Marianne Williamson. In questa poesia Marianne parla di quella che è la nostra paura più grande. E dice così: la nostra paura più profonda e inconscia non è quella di essere inadeguati. La nostra paura è di essere forti, potenti. È la nostra luce, non la nostra oscurità, a spaventarci. Comunicare per me significa proprio questo: liberare la luce che è dentro di noi. Ti è mai capitato di trovarti di fronte a persone nuove e avere anche paura di aprire bocca? Pensi ogni tanto di non avere abbastanza qualità? E magari guardi gli altri e ti sembra che loro abbiano quello che tu non hai e senti una sensazione allo stomaco e come un senso di inadeguatezza. O ti è mai successo di dover parlare in pubblico e pensare che farai una pessima figura e tutti rideranno di te? Ecco qual è la domanda che si agita dentro di noi in quei momenti. Chi sono io per essere brillante, pieno di talento, favoloso? Quando avevamo pochi mesi di vita, eravamo uno spettacolo di comunicazione. Poi, piano piano, tante paure si sono radicate in noi, tra cui una forse più radicata delle altre in alcuni di noi, quella di uscire da noi stessi. In una parola, la paura di comunicare. La poesia prosegue così: siamo tutti fatti per risplendere, come fanno i bambini, che ancora sono liberi nella mente. Siamo nati tutti per rendere manifesta la gloria di Dio che è in noi. E questa scintilla non è soltanto in qualcuno di noi, è in tutti noi. Siamo tutti miracoli viventi, siamo tutti scintille di luce scaturiti dalla bellezza e dall'amore di Dio. Ma se questa luce la teniamo soltanto dentro di noi, facciamo un grande danno alle persone che ci sono accanto e impediamo al mondo di essere più luminoso. Per me provare a comunicare meglio significa semplicemente questo: lasciare che questa luce che è dentro di noi possa risplendere in modo pieno, vivace, totale. Ma la cosa splendida, sapete qual è? Che se lasceremo che questa luce brilli dentro di noi, la nostra presenza automaticamente libererà anche gli altri. Libera la luce che è in te, libera il sorriso di Dio che hai dentro. Non è tua proprietà, è un dono che ti è stato fatto perché possa raggiungere gli altri. E a questo punto, ecco la sorpresa, un regalo bellissimo, la poesia di Marianne Williamson, letta interamente dalla splendida voce di Valentina Benenti. La nostra paura più profonda e inconscia non è quella di essere inadeguati. Spesso lo siamo e lo consideriamo normale. La nostra paura è di essere forti, potenti. È la nostra luce, non la nostra oscurità, a spaventarci. Ci domandiamo, senza rendercene conto, chi mai sono io per essere brillante, bello, pieno di talento, meravigliato e meraviglioso? A pensarci bene, chi sei tu per non essere tutto questo? Sei una creatura di Dio. Il tuo mantenerti con un profilo basso non serve al mondo e non serve a te. Non vi è niente di illuminato nello sminuirsi, nel far sentire insicure le persone che ti stanno intorno. Siamo tutti fatti per risplendere, come fanno i bambini che ancora sono liberi nella mente. Siamo nati tutti per rendere manifesta la gloria di Dio che è in noi. E anche se non credi, ne fai parte, perché è in tutti noi. Ogni volta che facciamo risplendere la nostra vita interiore, diamo inconsciamente la possibilità ad altri di fare lo stesso. Quando ci liberiamo dalle nostre paure, la nostra semplice presenza automaticamente libera gli altri. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace, un commento per dirmi che ne pensi e condividilo con i tuoi amici perché altri possano vederlo. Grazie!